Mi chiamo Sara e sono precaria. Nel mio caso non è solo il lavoro precario. Hanno inventato la flessibilità, un bel sistema basato sul precariato. Prima ci hanno propinato i contratti co-co-co, collocato come un coglione. Poi le collaborazioni a progetto. Praticamente qualunque cosa tu faccia, collabori a un progetto. E pensare che quando hanno introdotto questo sistema, io mi sono gasata tantissimo. L'idea di non dipendere più da nessuno mi esaltava. E poi mi piace cambiare, non sono un tipo dalle lunghe scadenze. L'idea di una società all'americana, flessibile, con più opportunità per tutti, mi ha reso più fiduciosa verso il genere umano. Assunta a tempo indeterminato in un'azienda di comunicazione, mi sono convinta che diventare più flessibile mi avrebbe dato grandi opportunità. Diventa anche tu imprenditrice di te stessa. Sei giovanissima, devi puntare sul tuo futuro. Se passi dall'indeterminato al progetto, ti diamo più incentivi. Meno tasse per noi, più benefit per te. Buoni pasto, buoni benzina, telepass. Ah, ma io non ho neppure la patente. Non... Beh, puoi sempre prenderla. E poi sono benefit, scusa. Mica vorrei rinunciarci. No, è che è solo noi che... ti stiamo offrendo la possibilità di diventare imprenditrice di te stessa. Forse ancora non ti rendi conto di come potrà cambiare la qualità della tua vita. Con il progetto non hai più orari. Gestisci il lavoro come meglio credi e ti dirò di più. Che se non hai nulla da fare in ufficio, te ne torni a casa senza timbrare il cartellino. Così hanno completamente annientato l'idea di progettualità. Ti assumono a progetto e non hai un progetto. Nessun potere decisionale sulla tua vita, niente di concreto a cui appigliarti. Prima o poi ti senti disorientato. Allora che fai? Ti chiudi nella religione e finisce la storia. Oppure ti rivolgi alla psicologa, che nella migliore delle ipotesi ti aiuta a ritrovare il senso. O è la criminologa a occuparsi di te, perché hai dato fuori di testa e commesso qualche follia. Ed ecco che si disegna il profilo del potenziale serial killer. Praticamente ognuno di noi. Soffro di insonnia da più di un anno. È un'esperienza drammatica quando ti accorgi che la notte è molto più lunga del giorno. Infiniti minuti notturni durante i quali mi tormento pensando alla mia situazione e a quel cazzo di lavoro. Non mi pagano gli straordinari, non mi pagano le ferie, non mi pagano la malattia. Se non c'è una che mi sostituisce, non mi posso mica assentare dal lavoro, neppure se ho la febbre a 40. Chi la apre la porta se non ci sono io? Occupo la postazione della reception dell'azienda AA e il mio progetto è accoglienza, reception, portineria. Dico buongiorno e buonasera. Sono una meba. Un umanoide dopo un grave trauma psicofisico dal quale non si è più ripreso. È rimasto un importante ritardo mentale. E anche stanotte non ho dormito. Sono la prima persona che vedi entrando, sotto i riflettori al neon e al getto del bocchettone dell'aria condizionata, di prima mattina. L'aria artificiale d'estate congela, d'inverno brucia. In entrambi i casi mi uccide. La mia vita non mi piace, perché mi sento soffocare, sono in azienda dalle 8 e sono isolata dal mondo. Ho lasciato il letto da rifare, i panni da stirare, la lavastoviglie bloccata, il cane da portare fuori, il mio bambino alla fermata dell'autobus, senza sapere se arriverà a scuola. Qui è un viavai di impiegati, più o meno laureati, lo dico perché ci tengono molto. Anch'io sono laureata, ma non conta, materie umanistiche, la famosa laurea debole. Sì, ci sono cascata, eppure ci tengo. Tanto che non sono mica rimasta con le mani in mano dopo la laurea. Inizialmente uno pensa di adattarsi a fare qualunque cosa. Col tempo ti rendi conto che questa è l'unica prospettiva a tempo indeterminato. Così, per aumentare le mie chance nel difficilissimo mondo del lavoro, mi sono offerta volontaria per degli stage, rigorosamente non retribuiti. Dal settore editoriale a quello commerciale, le ho provate tutte. A meno che non ti offrano un posto da stagista fotocopiatore, le aziende, piccole e grandi, richiedono esperienza maturata nel settore e competenze da professionisti. Niente a che vedere con la formazione. L'unica L'unica cosa che ha a che fare con la formazione è che ti affiancano qualcuno che possibilmente ti detesta e che non ha nessuna voglia di aiutarti a imparare. Ti danno un rimborso spese di 20 euro e vaghissime prospettive di assunzione. Del resto, se nessuno ti assume, come la fai l'esperienza? Lavorando gratis, e li devi pure ringraziare. Io, gratis, ho selezionato bambini per una trasmissione canora, che poi non sono mai bambini. Sono degli ottenni sapientoni posseduti dallo spirito di Claudio Villa. Gratis ho lavorato in un ufficio dove il capo masticava tovagliolini di carta come metodo antistress. Gratis ho venduto il kit di Padre Pio a tutti i paesini del sud Italia. Insomma, ci sono dei momenti in cui arrivi al punto che di esperienze ne hai fatte tante, diverse, e così inutili, che non sai più cosa volevi fare nella vita e manco chi sei. Ora, non voglio dire che sia sempre tutto così difficile, eh. Conosco anche delle persone che si sono trovate nel posto giusto al momento giusto. Personalmente mi sono iscritta all'agenzia interinale e ho continuato a studiare. Sono stata all'estero per un po', ho fatto corsi di inglese e francese. A Londra ho preso la patente di terzo livello. Ora riesco a dire business come nessun altro. Il segreto è la S, sibilante come un serpente. Business. Il francese? Anche lì so dare il meglio. Affaire. Qui il segreto è la R. Scivola sulla lingua. Affaire. Ah, i francesi sanno dire cose così semplici in un modo meraviglioso. Comunque, armata di due lingue, una laurea e una patente informatica europea costata un migliaio di euro, sono tornata in Italia e ho ripreso a mandare curricula su curricula. Dopo qualche buco nell'acqua, ecco che mi chiama la ATK International, un gruppo enorme con sede principale a Washington. Quando mi hanno telefonato per il colloquio non ci credevo. È stato tipo il primo appuntamento, quello del primo bacio. Stai lì, non sai che dire. L'ho raccontato subito a mia madre. Per lei, che ha rinunciato a tutto per suo marito, è stato come realizzarsi. Voleva comprarmi un vestito da sposa, ma mi sembrava un po' eccessivo, l'ho dissuasa. Allora mi ha regalato un tailleur bianco. Sembravo un'ostrica. Non pensi che le stiamo proponendo un ruolo da segretaria, eh? Nell'era della globalizzazione, l'office coordinator è il punto centrale per il successo di un'azienda come la nostra. Lei dovrà svolgere dei lavori indispensabili per i viaggi, i contatti, e ci vuole professionalità soprattutto. Sarà dura, eh? Spesso si sentirà frustrata, dovrà prepararsi. Probabilmente all'inizio farà anche delle cose che le potranno sembrare ingrate, ce lo vogliamo dire? Ma si ricordi che lei sarà la nostra voce, il nostro primo contatto con il mondo. Allora, cosa mi dice? Vuole essere dei nostri? Mi veniva da piangere. Ce l'avevo fatta! La settimana dopo, un blocchetto in plastica traslucida, 100 biglietti da visita con il mio nome e cognome, cartoncino bianco da 300, un bianco smalto ostrica che si intonava perfettamente al mio tailleur. Ero davvero il primo contatto col mondo. Infatti, ero l'unica ad arrivare alle 7:30. Coordinavo i fornitori e risolvevo tutti i problemi dell'ufficio di Roma. Le penne nel portapenne, tranne la matita HB3 che l'ingegner Cozzi voleva parallela alla tastiera del PC, mentre disposta perpendicolarmente doveva trovarsi la gomma da cancellare bicolore. Le serrande aperte a due terzi e le tende chiuse a coprire la vista sulla strada. Il vassoio delle caramelle per le riunioni sempre pieno. Le merendine al latte scremato fatte con farina di mais per il dottor Enzi, celiaco, non dovevano mancare mai. Caffè, acqua, tè e succhi di frutta. Mi competeva il reparto cucina. La ATK! La ATK era davvero l'avanguardia, il benessere prima di tutto. E di certo non potevo far mancare una pregiatissima carta igienica. Grazie al mio inglese ero diventata un'esperta e ne avevo selezionato un tipo all'orchidea selvatica che veniva direttamente dall'Australia. Un contratto di prova di un anno, durante il quale dovevo essere testata sulle mie capacità di office coordinator, coordinatore del benessere interno. Un anno, 12 mesi, 3.000 ore lavorative circa. Complimenti e stima da parte di tutti. Per il rinnovo del mio contratto dicevano: ma non preoccuparti, stai facendo un ottimo lavoro. La settimana prima della scadenza, ancora nessuna notizia. 2 giorni prima, però, una mail dall'ufficio risorse umane dell'azienda. Gentile dottoressa, nel comunicarle che siamo fieri del suo operato, la informiamo che il suo contratto di lavoro è concluso. Cordialmente, l'ufficio risorse umane. Nessuno si è fatto vivo. Io ho cercato spiegazioni. Ho cercato di capire dove avevo sbagliato. Cosa? Come? Dov'era il mio futuro? E tutte le stronzate in cui avevo creduto. I bigliettini da visita non mi sono mai serviti, tranne qualcuno per i filtri. Ho dato tutto, ho fatto tutto. E se ci penso, non mi viene neanche più da piangere. Capisco risorse, mezzi, pezzi di ricambio, ma di umano? C'è rimasto qualcosa di umano? Emotivamente parlando, anche nei piccoli nuclei, c'è una relazione sana? Voi ce l'avete? Tenetevela stretta. Io, per dire, da quando mi sono separata, non riesco neppure a trovare un uomo. Mi viene sempre in mente lui. Se ci penso, non riesco a ricordare il motivo per cui l'ho sposato. Io, che non potevo programmare il mio futuro, e lui, pronto a gestirmi le giornate. Sara? Ti vengo a prendere alle 18. Alle 18:15 andiamo a fare la spesa. Alle 19:30 a casa. Alle 20 si cena, che alle 20:30 inizia la partita. Non vorrei andare a dormire più tardi delle 23. Se dormo meno di 8 ore sto male. Domattina per te sveglia alle 6:30. Ale lo porto io all'asilo. Vado al lavoro e quando finisco ti vengo a prendere. Ah, stasera cena da mia madre. Dopodomani ho una cena di lavoro con i colleghi. Ti potresti mettere quel vestitino che mi piace tanto? E quando si scopa? Tutta la settimana. Ogni giornata era stabilita con un anticipo di almeno 3 giorni. Un incubo. Stavo diventando matta. Mai un pensiero rivolto alle mie esigenze o ai miei piaceri, non so. Per te andrebbe bene, Sara? Tu che vuoi fare? L'abito che mi piace tanto è comodo? Perché in effetti non era comodo per un cazzo. Era una taglia in meno e mi sentivo un insaccato con quello addosso. Così sono arrivata alla mia decisione. Lui, ecco, lui non mi ha aiutato a cambiare idea. Diciamo che non ci ha proprio provato. Sarà per questo che non l'ho superata del tutto. Orgoglio femminile. E poi c'è mio figlio. Non è facile quando è un figlio a tenerti legata. Così, per distrarmi e cercare di non pensare, ho passato un po' di mesi in giro con le amiche a fare Sex in the City. No, non è per me. Roba da americani. Mi sono persa fra un aperitivo e l'altro, qualche incontro, sbagliato. Eh sì, perché accade che dopo aver fatto 3-4 volte sesso, essere usciti, avermi presentato agli amici, totale più di un mese che ci frequentiamo, termine moderno, lui continui a definirmi un'amica. Ora, non sarò tua moglie, me ne guardo bene. Magari domani non ci vediamo più, ma tantomeno sono una cazzo di amica. Preferirei essere chiamata conoscente. Deferenza, grazie. Del resto, non è che cerco un padre per mio figlio. Mi piacerebbe solo avere una relazione, non sentirla precaria. Essere scelta, voluta, amata per quello che sono, anche con il mio rotoletto di ciccia sulla pancia. E invece, niente relazioni stabili. E solo lavori che mi traghettano da un anno all'altro. Va bene, poi lasciamo perdere il mio super sogno. Volevo fare la scrittrice. Poi mi sono resa conto che non avevo nulla di nuovo da dire. Lasciamo perdere il principe azzurro. Al massimo esiste quello marrone. E puzza. Forse se sei bravo a rinunciare, hai davvero una marcia in più. Ieri era il mio compleanno e ho ricevuto un messaggio. Ciao Sara, Oggi è un giorno speciale per te. Sono felice quando leggo questo messaggio. Quasi mi convinco che sia un giorno speciale davvero. Non riconosco il numero. Penso a una sorpresa. Qualcuno che si ricorda di me. Ah, adoro quando si ricordano di me. Un pensiero bello, inaspettato, da una persona che non vedo da tanto tempo. Magari qualcuno che ha cambiato numero. Euforica, arrivo alla fine del messaggio. Con tutto il cuore, auguri, scorro fino in fondo, cerco la firma. Arlecchio Lavoro. Ogni anno, puntualmente io lo dimentico, l'agenzia interinale, che non mi ha mai indirizzato verso un lavoro di senso compiuto, che ha il mio curriculum da un numero indefinito di anni, che continua a propormi lavori per ingegneri mentre io sono laureata in lettere, porca puttana! L'Arlecchio, il leader dell'interinale, che sembra una forma virale che ti prende l'intestino e ti uccide, si ricorda di me, del mio fottutissimo, inutile anniversario di compleanno. Questo vuol dire che non è un giorno speciale per me. Quando invecchio, quando il tempo mi corre addosso, quando a sorprendermi ci riesce sempre solo l'agenzia interinale. Poi mi vengono a parlare di depressione, malinconia, il male dell'animo, quello di vivere. Ma quando c'è la salute c'è davvero tutto. Uno dovrebbe accontentarsi e non farla tanto lunga, soprattutto oggi con questa crisi. E chi ci riesce? Basta porsi 2 o 3 domande ed è finita. Secondo voi, perché quasi tutti i poeti, i letterati, gli artisti della storia da sempre erano drogati, psicotici o comunque fuori di testa? I poeti maledetti, i bohemien, i gay ai tempi dei greci, gli etero oggi, ma ci sarà un motivo. Quelli si chiedevano il perché, il come delle cose. Solo che di risposte soddisfacenti ce n'erano poche. Dunque oggi, l'umanista, se trova il suo progetto al call center, alla reception, alla segreteria di un'agenzia immobiliare, è fortunato. E voi tutti fareste bene a non porvi troppe domande. Poggio su un tavolino 1 metro per 1 metro. Accanto a me il computer, il telefono, nemmeno lo spazio per un libro. Aprire il quotidiano? Nemmeno se ne parla. Non so che effetto posso fare dietro al tavolino. Sono un mezzo busto. Sorrido con disinvoltura dispensando il buongiorno mediamente ogni 2-3 minuti. Vendo sorrisi. È mica male se la vediamo da questo lato. È che poi mi scambiano per una velina. Se lo sapessero, quello che mi aspetta a casa. Eppure, tutto sommato, l'idea della velina, mica male. A volte non capisco più se rido o se è l'effetto paresi d'aria condizionata che mi ha congestionato la gengiva o la lente a contatto cristallizzata nell'occhio. Ma che ci avrò da ridere? Per ognuno che saluto, io vorrei guardare da un'altra parte, rimanere con la testa china, in bilico, e non rispondere, non sorridere, non fare finta che siano tutti simpatici e piacevoli da vedere, soprattutto ignorare quelle frasi idiote, mal coniugate, inutili, di convenevoli che si scambiano tra colleghe di prima mattina sul corridoio. Ma come stai bene oggi, Carla? Anche te, Marina, sei un amore. Questo Giacchino ti sta benissimo. Giacchino? E che cos'è un Giacchino? La parola Giacchino in italiano non esiste. E poi non è vero che le sta bene, sono 2 cessi loro. Che bisogno c'è di dirsi tante cazzate? Non basta buongiorno? Carla, ma dove andiamo a pranzo? Io vorrei una cosina leggera, tu? Oh sì, anch'io! Un'insalatina, 2 verdurine, che dici? Un risottino, poi magari un gelatino, ho preferito un cazzino. Possiamo fare un'eccezione per stavolta, un bel cazzone, eh? Come dice? Il cazzone come mi permetto? Ma cazzo è un termine ormai entrato nel linguaggio corrente. Una parola che ha un significato a differenza di cosina. Cosina, verdurina. Ma come parlano queste analfabete? Oddio! Adesso cosa vuole da me questo rompicoglioni? Signorina? Signorina? Signorina? Ah, signori! È arrivato l'ingegnere? Eh no, perché l'aspetto da stamattina presto. Ieri ha detto che mi doveva dare una cosa. Senta, se non lo vedo prima io, mi avvisa se arriva? Mi avvisa, signorina? Mi avvisa? Io torno giù allora, eh? Oh, me raccomando, eh? Grazie. Ingegnere... Ah, no, non l'aspettavo. No, ma non doveva. Ma che me danno? No, no, guardi, non posso accettare. Vabbè, allora grazie, grazie. Grazie del pensiero, ingegnere. Ma che? Ma a me non mi piace. Ne poteva dare qualche sordo come l'anno scorso. Ma io che ci faccio che cravatte? Faccio il portiere, mica il rappresentante. Signorina? Signorina? Io ho ridato a lei il regalo all'ingegnere, eh? Ah, a proposito, lei ogni tanto passa e non mi saluta. Non è bello. Oggi è una giornata che non finisce più. E la salute non mi basta per stare bene. Siete fastidiosi. Siete come le mosche. Ora vi tramortisco. Vi stacco le zampette e le alette. Eh sì? Perché date troppo fastidio, troppo. A chi mi parla lo brucio. Gli conficco la penna in un occhio. Non mi va di sorridere, di dire buongiorno, né di aprire porte. Adesso mi chiudo in bagno e piango. Così non mi vede nessuno. Mi chiudo in bagno e non mi vede nessuno. Sono le 9:40 ed è già la 172esima porta che suona. È normale. Siamo in una multinazionale, del resto. Ma la cosa peggiore è il citofono. Un suono stridente, a 10.000 decibel altezza cranio, posizionato a 50 centimetri dal mio orecchio. Il risultato è che a me è venuto il cerume da ammortizzazione dei suoni. Citofono numero 173. Cazzo! Il capo no. No, oggi non ce la faccio, lo so. Buongiorno, Sara. Buongiorno. Ma con questi occhi così brillanti, che cosa ha fatto stanotte? Ah, non me la racconta mica giusta, Sara, con queste ciglia che tirano baci. Stanotte? Nulla. Ennesimo citofono. Sì, finalmente. È lui, il più bello, il più giovane, il più vicino a me, l'ultimo arrivato. Uno stagista sui 30 anni, corporatura media, aspetto medio, capelli medi, nel senso che li sta già perdendo, intelligenza media, lo capisci subito da come si accoda ai colleghi superiori. Sorriso tra l'ebete e il viscido, si avvicina al tavolino e mi fa vedere i denti. Che incubo! Meccanicamente capisco che quello è il segnale per aprire il suo cassetto tra le mie gambe ed estrarre l'inutile foglio dove lui raccoglie le sue firme presenze mensili. Se non sorride, non apro. Allora, idiota? Faccio scivolare il suo cassetto, gli passo il foglio, lui me lo dà, io lo prendo. Qui è un viavai di donne segretarie in carriera. Passo felpato, deciso, scodinzolanti, altezzose, austere, fiere della loro posizione, madri, mogli, lavoratrici affermate, mediamente insopportabili. Davvero poche, con in mano il senso della loro vita. Devo ridurre i miei istanti di riflessione. Sono già le 12:12. Amo le ore gemelle. Palletti, tutte quelle sigarette ti uccideranno. Sei un continuo, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori. Ma cosa ti hanno assunto a fare per rompere le palle a me con questo entrare e uscire? Palletti, alla tua età Ma ti sembra ancora questo il modo di attirare l'attenzione? Inscenare il furto dei buoni pasto? Palletti, sei licenziato. Ah, il dirigente. Devo segnare il suo orario di entrata. Sono una spia, lui non lo sa. Il disadattato. All'inizio mi faceva pena, adesso lo odio. Non esce se non mi dice che sta uscendo, non entra se non mi dice che sta entrando. Ma cosa credi? Che siamo qui tutti a chiedere dove sei, cosa fai, ma non lo capisci che non gliene frega niente a nessuno di te? Sì? Sì, le apro, primo piano, prima porta a destra. E tu? Tu cos'hai da guardare tu? Che siamo allo zoo? Siamo allo zoo, rispondi! Sì? Sì, le apro, primo piano, prima porta a destra. No, non mi gridare nell'orecchio! Come dice? Esce per il pranzo, bene! E chi se ne frega? Sì? Sì, primo piano, prima porta a destra. Prego, mi dica. Mi sente parlare al telefono e la deconcentro. Ma se sto parlando pianissimo. Ah, mi sente bisbigliare e le dà noia. E certo, certo, non si ripeterà più, mi scusi. Sì? Sì, le apro, primo piano, prima porta a destra. Cos'è? Ti piace dare ordini? E dammeli, dammeli, stronza, che me ne frega a me. E tu non mi guardare, girati. Sì? Sì, primo piano, prima porta a destra. Cos'è? Non ha funzionato la scopata stanotte? Frustrata che non sei altro. Girati! Non mi guardare! Sì? Sì, le apro, primo piano, prima porta a destra. Mamma mia, ma che gli è rimasto incollato il dito al citofono, a questo? Sì, sì, le apro, primo piano, prima porta a destra. Ma qualcuno che rimane fulminato da questo cazzo di citofono non c'è! Sì, sì, primo piano, prima porta a destra. Ho detto non mi guardare, girati dall'altra parte! Sì, sì, le apro, primo piano, prima porta a destra. Per favore, si può abbassare l'aria condizionata? Perché l'aria artificiale d'estate congela, d'inverno brucia. D'estate congela, d'inverno brucia. Ho detto non mi guardare, girati dall'altra parte. Sì, sì, primo piano, prima porta a destra. Per favore, si può abbassare la suoneria di questo citofono? Perché penetra nell'orecchio. E non mi suonare nella testa, non mi suonare nella testa. Girati dall'altra parte, ho detto ti conficco la penna in un occhio adesso. Sì? Sì, primo piano, prima porta a destra. Per favore, qualcuno ha sentito quello che ho detto sull'aria condizionata e anche sul citofono? Non mi guardare, ho detto, girati! Sì, sì, primo piano, prima porta a destra. Per favore, qualcuno mi ascolta! Qualcuno mi ascolta! Non mi guardare, ho detto, girati! Sì, sì, primo piano, prima porta a destra. Ho detto non mi guardare, sì! Sì, le apro, primo piano, prima porta a destra. Non mi guardare, sì! Sì, primo piano, prima porta a destra, ho detto non mi guardare! Dipendentucoli. Mi venite a chiedere dove è andato il dottor Martella? Dove si trova la segretaria dell'avvocato Torresi? L'ingegnere uscendo è andato a destra o a sinistra? Così voi andate nella direzione opposta, eh? E il dirigente è al bar all'angolo o al ristorante? Mangia? Segue la sua dieta? Il suo autista è in macchina che sta dormendo o in bagno che si sta toccando? Ma io che cazzo ne so? Non me lo dicono. Me lo dicessero, ma non me lo dicono quello che fanno. E non lo so se è andato a destra o a sinistra, se sta al bar a cagare o al bagno a mangiare, non lo so. E poi uscite troppo, state sempre in giro, citofonate sempre. Beh, beh, beh, più fastidioso di uno scoppio. Beh, beh, beh, tutto il giorno nell'orecchio in continuazione, la mattina quando entrano e quando escono, dopo la colazione, dopo il caffè, dopo la pausa pranzo, dopo la riunione fuori sede, dopo la passeggiata con la spesa al supermercato, io non vi sopporto più! Ma non è colpa vostra. È colpa del citofono. Devo ridurre i miei istanti di riflessione. Si avvicina la pausa pranzo e sta per ricominciare il delirio. Prima che l'inferno abbia inizio, io devo prepararmi. Posiziono le mie gambe fra i cassetti per essere pronta quando lui mi verrà a chiedere il suo foglio presenze mensili. Mi ricompongo. Buon pranzo. Buon pranzo. Salve. Sì, sì, prego, di là. A dopo. No, no, il dirigente non è ancora uscito. Prego. Buon pranzo. A dopo. Ora il citofono non suonerà per un bel po'.